Il vostro programma comprende oggi la rubrica Eclettica. Vaccino e concorso per i seguenti ruoli. Signore e signori, buonasera. Buonasera. And bills that we've laundered. These mountains and molehills, and the gypsy boys wander in search of their first love in castles up high. But when pressed upon it, these words are just lies. I'm away. In truth, I can't break. As long as you take a hold of my neck and strangle each word till it all sounds absurd, and then your hearing gets blurred, 'cause sounds are all we got. Neatly tucked away, that my grandmother bought me with the savings she had every Christmas morn. But now I'm feeling so bad, 'cause all my socks are torn up. There's no need to worry, 'cause the sentence can't hurt me. And though the powers they've got, oh, they seem like a lot, but it just ain't enough. Dressing yourself one leg at a time. Keep stacking those shelves with empty bottles of wine. And this basement we're in, it's a foolworthy mess. We're all living in sin, but we couldn't care less. It's quite the conniption in this old jurisdiction. We all bleed with conviction from wrestling demons on an empty platform, and our elders are screaming, why won't you come back home? We'll find a way out here. Uncle Joey. Better get used to these bars, kid. Yes, Joey just loves being in his playpen. He cries whenever we take him out, so we just leave him in there all the time. Flashing dreams inside alive. Time is multiplying, fantasizing about everyone she knows. Loving everyone she knows. Spelled nearly a dozen nights, haunting empty streets of factory gardens and feeling them with songs. Keep saying feeling them with songs. Found a train car filled with wine. Huge cool mix on the wild. While I strum my way guitar, man, you looked awful bizarre. Lying naked on your side, roasting chestnuts on the ground. Loved you till I nearly drowned. Woke up in another dial. You're in a diamond train. It is to you I sing. Music bell. Can't give you anything. You're in a diamond train. Music bell. She would climb down 26 ladders. She would hide out deep in storm sewers. And the sounds could echo forever. And she pulled out 56 treasures. And the sounds would echo forever. In a cool mouth she would know pleasure. On a lonesome she is a survivor. With a random from afar, keeps a penknife in her pocket, smiles at strangers, afraid of cars. She drinks salt water and cocaine. Told me it put hairs on her brain. Loved by all drunkards and the insane. They call her name out. Seconda parte di Eclettica, quella che è cominciata da due brani entrambi provenienti dal Canada. Giulio Caperdoni in vostra compagnia tutti i giorni fra le 19 e le 20 qua sulle frequenze di Rock FM. Vi dicevo di Canada, partiamo dall'ultimo, quello che vi siete appena ascoltati. È un quartetto prevalentemente femminile che proviene dalla città di Montreal, si chiamano Hot Springs, la frontwoman è Giselle Weber e sono usciti il 18 di settembre con quello che è l'esordio su lunga durata. Fino ad ora erano usciti solo EP. Volcano il titolo dell'album che esce per la Choir Records, la traccia che lo chiude, la numero 10, è quella che ci siamo ascoltati, 38th Adventure. Invece la seconda parte di Eclettica si era aperta con un artista che proviene da Vancouver, si presenta con lo pseudonimo di October Man, ma il suo nome all'anagrafe è Mark Morissette. parente? No, non lo so. White Whale Records, l'etichetta della balena bianca, quella per cui è uscito Distress Are Old and New, l'album dal cui ho estratto Run From Safety. E proseguiamo con Dale Grundle, ovvero sia The Sleeping Years. Questo è lo pseudonimo che l'artista nordirlandese ha deciso di adottare dopo aver abbandonato la band che aveva fondato, ovvero sia i Catchers. Dale Grundle, che aveva preso l'impegno con chi ascolta la sua musica di far uscire un EP ogni trimestre nel 2007. Infatti è arrivato l'ultimo, è arrivato nella mia casella di posta con una busta piena di francobolli con la regina Elisabetta ed un foglietto in cui Dale mi dice: "Hi Giulio, thank you so much for playing the songs I sent you. Here is the last EP for this year." Quindi questo è l'ultimo EP per l'anno. I hope you enjoy it. Non mi è dispiaciuto, vediamo di sentire anche il vostro parere dopo il primo ascolto del brano che proprio gli dà il titolo. Si tratta di Clocks and Clones. Close your eyes, we'll sound the way. Old souls all wrapped in wonder. The arc of them, a stitch of fame, reflecting on each other. Communicating down the line, with hints and curves appearing. A measured ground, the plotted stars spilling out. Songs like cables wailing, a twitching gem, a rush of light, the resonating outbursts. A dream of clocks, a dream of clones, all sounding out together. The click of hearts, and the hours lost as I breathe on. Colors breaking through, I don't know how long now. This babbling, slipping tongues all fused into one. So the sound of dislocating, this is the sound of distance overtaken. All my words and thoughts are failing, but the sound of something being swung. So the sound of but the sound of something being swung. So the sound of dislocating, it's the sound of distance overtaking. All my words and thoughts are failing, but the sound of something being swung. So the sound of dislocating, it's the sound of distance overtaking. All my words and thoughts are failing, but the sound of something being swung. Lenzuola sporche. Un ospedale dell'Indian Health Service alla fine degli anni 60, in una riserva qualsiasi, una qualsiasi o una particolare, antisettico, cinnamomo e altri odori più fradici. Su e giù per le corsie, grida anonime. Pavimenti in linoleum passati con acqua grigiastra. Lo straccio puzza di sesso rancido. pareti imbiancate 10 anni prima, ormai scrostate e gialle. Una vecchia indiana su una sedia a rotelle canta a se stessa canti tradizionali battendo il tempo sul bracciolo, l'indice destro che batte, pausa, tap, tap. Un telefono squilla lacerante dietro un uscio sottile con la scritta privato. 20 letti disponibili, 20 letti occupati. Sala d'aspetto, c'è un indiano giovane seduto su un divano con la testa tra le mani. La sala degli infermieri, due uffici dei dottori e una caffettiera bruciacchiata. Un vecchio indiano, con i capelli bianchi, lustri, senza trecce, spinge per la corsia l'ampolla della sua fleboclisi. È scalzo e confuso. Cerca un paio di mocassini che ha perso quando aveva 12 anni. Cataste di giornali e riviste regalati da qualcuno, vecchi di mesi e di anni, pagine mancanti. In uno degli ambulatori, una famiglia di 4 indiani, madre, padre, figlio e figlia, tutti tossiscono silenziosamente sangue nei fazzoletti. Dietro la porta privato, il telefono continua a squillare. Un edificio di calcestruzzo, finestre spesse che distorcono il paesaggio, pini, asta di bandiera. Una Chevrolet del 1957 parcheggiata alla Carlona, il portellone spalancato, il motore ancora acceso, il sedile posteriore umido e macchiato di sangue. Adesso è vuota. Questo era l'incipit di Indian Killer di Sherman Alexie. Long way down for me. Una chiusura tutta statunitense, quella di quest'oggi, quella di questa settimana di Eclettica, ancora un brano, ancora un incipit e poi saranno i saluti. Giulio Caperdoni che vi ha appena fatto ascoltare un album che uscirà l'11 di dicembre da parte di Meredith Bragg, album intitolato Silver Sonia, dal quale il brano estratto era Twin Arrows. E si chiude invece con The Black Lips d'Atlanta, Georgia, dei quali la Vice Records ha appena pubblicato una versione remix della loro Veni Vidi Vici, remix intitolato Diplo Remix, come ritroverete riportato correttamente con la precisione che mi è solita all'interno delle playlist di Eclettica. Oh, danzando tutto solo, sentendomi niente bene. È da tanto che nessuno ha capito tutto quello che ho visto. È per questo che piango. E per cena ho avuto solo sonno. Sapete che sono solo, che sono tanto solo. Il mio cuore è vuoto e ho tanta fame. Per placare la mia fame mi basta qualsiasi cosa potete darmi. Prego. Questo era l'incipit di Reservation Blues di Sherman Alexie. Our first television set. Dad just picked it up today. Do you have a television? Oh yeah, you know we have two of them. Wow, you must be rich. Oh honey, he's teasing you. Nobody has two televisions, Dad. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 1, volume numero 5. Indice, Robert Wyatt, Black Kids, Volve, The State of Samuel, The Ghost Station, Siberian, Octoberman, Hot Springs, The Sleeping Years, Meredith Bragg, Black Lips. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.